Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette e 10 minuti, inizia l'ultima puntata della settimana di Focus Economia e la settimana borsistica finisce come peggio non si poteva. Il calo di Piazza Affari è del 4% adesso sul MIB, del meno 4,7% sull'S&P MIB, meno 3,5% Parigi, meno 4% Francoforte, meno 2,80% Londra. Cosa sta affossando le borse? Di nuovo il settore bancario. Le perdite sono pesantissime in questo momento su Intesa San Paolo, meno 10,6%, il Banco Popolare meno 10,6%, Alleanza meno 8,30%, Unicredito meno 8,30%, Unicredito ormai vale 90, anzi è scesa anche sotto i 90 centesimi per azione, Fondiaria dicevamo meno 5,85%. Ancora vi davo la quotazione adesso di Unicredito perché i titoli si muovono così rapidamente che diventa anche difficile seguirla. Il calo adesso di Unicredito dell'8,35 a appunto 90 centesimi per azione, Intesa vale 1,87 euro invece. Continuiamo, Generali meno 5,7, UbiBanca meno 5,2 e poi male anche Gruppo Eni, Saipem meno 5, Eni meno 4,3%, Fiat di nuovo pesante, meno 3,80, sotto i 4 euro per azione. Cosa guadagna? Seat più 2, Snam più 0,3 come Terna. Perde meno di altri Enel, meno 1,9%, nel giorno in cui dovrebbe arrivare l'annuncio del perfezionamento dell'operazione su Endesa. Comunque, 349-238-6666 per i vostri sms. Partiremo chiaramente anche dalle banche. Il doppio fronte oggi è europeo e americano. Il nostro GR vi ha appena raccontato dei Tremonti Bond cosiddetti, a cui Bruxelles ha dato il via libera, ossia praticamente la cifra complessiva messa a disposizione dal governo è pari a 10 miliardi. I Tremonti Bond, le obbligazioni Tremonti per tradurlo in italiano previste dal decreto anticrisi del governo, sono in sostanza delle obbligazioni emesse, quindi dei titoli emessi dalle sole banche quotate, per cui non quelle non quotate, e che vengono in automatico sottoscritti e quindi acquistati dal tesoro. Questo per sostenere la capitalizzazione delle banche. L'obbligazione altro non è che la richiesta di un prestito, come i titoli di Stato sono la richiesta di un prestito in automatico sottoscritto dal tesoro per 10 miliardi di euro. Il rendimento assicurato da questa obbligazione dovrebbe essere del 7,5% secondo quanto richiesto anche dall'Unione Europea. Non vi sarebbero penali nel caso di un rimborso anticipato. La sottoscrizione, però, cioè il fatto che il tesoro di fatto presti soldi attraverso le obbligazioni alle banche, è condizionata da un lato da una valutazione della Banca d'Italia su come sono messe le condizioni economiche delle banche che ne faranno richiesta, ma anche dall'assunzione di impegni da parte delle banche di assicurare il flusso di credito, cioè il tesoro dice io ti presto dei soldi se tu però garantisci che l'erogazione del credito ai privati o alle imprese resta stabile, non che questi soldi li usi solo per far cassa, quindi credito a piccole e medie imprese e alle famiglie, e poi l'adozione di un codice etico per i vertici anche sugli stipendi dei vertici di queste banche che dovessero farne richiesta. Serve una gabbia di gufi, ma insomma, tranquilli, tanto ne abbiamo viste in questo periodo. Intesa perde il 10,7 adesso, il Banco Popolare il 10,6, una batosta così. E resta la domanda: come mai ancora sulle banche, nonostante non vi siano state notizie di ulteriori svalutazioni, nonostante non vi siano notizie di forti perdite? Daremo oggi anche qualche dato, ma insomma la banca Pekao, che è una banca polacca controllata da Unicredito e che molto aveva fatto speculare sulle perdite dell'est Europa, oggi ha chiuso il quarto trimestre con una crescita dell'utile netto del 28% a circa 150 milioni di euro, un risultato migliore delle attese. Ecco perché non capiamo, lo dico onestamente, Tra l'altro, su Unicredit, lasciatemi spezzare una lancia, ma insomma, metà del fatturato lo realizza in Italia, il 17% in Germania, e lì insomma, i timori sono forti, la situazione tedesca è molto preoccupante, controlla Hypovereinsbank, l'8% lo fa in Polonia, ma metà del fatturato lo fa in Italia. Ora, vedere che il titolo vale, e lo dico molto tranquillamente, ma insomma, 98 centesimi, anzi 89, eccolo qua, centesimi di euro, quando valeva 6 euro un anno fa, quota molto meno dei mezzi propri, cioè degli immobili, delle proprietà, io spiegazioni obiettivamente non ne vedo, ne parleremo fra poco anche con chi segue la finanza ancora più da vicino. 349-238-6666 per i vostri sms, le notizie in breve. Chi invece vede rischi più seri per le banche europee è Nouriel Roubini, l'economista famoso, l'economista della New York University, perché in tempi non sospetti, 3 anni fa, previde la crisi, fu chiamato gufo, adesso però qualche sassolino della scarpa se lo leva. Il problema delle banche europee, ha detto Roubini, sta diventando più serio perché gli interventi di salvataggio di Europa e anche Giappone in favore delle banche sono in ritardo. Dicevamo dei Tremonti Bond, già annunciato il via libera di Bruxelles all'operazione sui Tremonti Bond, ma resta pesante, si è anche appesantito ulteriormente dopo il via libera dei Tremonti Bond. Qui scatta anche un meccanismo psicologico stranissimo, per cui c'è chi non vuole chiederli perché ha paura che a chiedere l'aiuto del tesoro significhi ammettere che la situazione è peggiore delle attese. Insomma, l'importante è che adesso le banche abbiano uno strumento del genere. Voi dite il rendimento al 7,5%, attenzione, l'ha chiesto l'Europa, un rendimento alto, altrimenti di fatto era un aiuto di Stato, per cui non si poteva dare un rendimento o far pagare alle banche un interesse più basso, perché diventava di fatto un salvataggio, un aiuto di Stato alle banche. Andiamo avanti con questa vicenda, perché dopo le dichiarazioni ieri, o meglio le indiscrezioni dopo le dichiarazioni del Presidente del Consiglio Berlusconi al G7 si è discusso di nazionalizzare le banche, non è il caso dell'Italia, ma ieri molto si è speculato. Oggi il Presidente del Consiglio di Sorveglianza di Intesa San Paolo, Giovanni Bazzoli, ha detto: penso che a questo punto sia chiaro a tutti che il tema dell'eventuale nazionalizzazione di alcune banche non riguarda le banche italiane. E questo è il fronte europeo, se vogliamo tenere distinti. Poi c'è il fronte americano, dove la risposta nella settimana del piano del via libera al piano Obama peggiore non poteva essere. Allora, Citigroup perde il 20,7%. Wells Fargo perde il 17%, Bank of America perde il 13%. Anche qui cosa sta succedendo? Il timore lì è molto più forte e molto più sentito che il piano salva banche americano porti di fatto a una nazionalizzazione dei colossi bancari, e lì scappano gli azionisti. Che nazionalizzazione vuol dire che si torna alla banca di interesse nazionale, come giustamente scrive oggi Franco Locatelli sul Sole 24 Ore, le vecchie BIN. Il gigante minerario inglese Anglo American ha chiuso il 2008 con un utile che è calato, è rimasto bello, 5 miliardi 200 milioni, ma è calato del 30% e ha annunciato 19.000 posti di lavoro da tagliare entro la fine del 2009. Le buone notizie arrivano dal petrolio, ancora una volta $37,6 al barile, in calo del 5%, mentre si segnala un oro sopra i $100, era da quasi un anno che non tornava l'oro sopra i $100, i timori di un peggioramento della recessione globale, al di là dei vari gufi, corvi, merli, giornalisti che diffondono cattive notizie, i timori di una crisi globale portano l'oro a quota $1,000 per la prima volta dal marzo del 2008. Per la precisione $1,030, poi è sceso a $999, questo sempre sui futures. Va bene, si fa per dire. Altri dati più ormai che lasciano il tempo che trovano: il fatturato dell'industria italiana nel 2008 ha avuto un calo non così brutto, meno 0,3%. Il peggioramento a quel punto è evidente negli ultimi mesi dell'anno, ma questo a significare che il fatturato della nostra impresa nel 2008 non stava andando così male fino a luglio, diciamo fino all'estate, e molte volte ne abbiamo parlato. Mentre chi ha affossato il dato complessivo è il fatturato del settore auto, è il peggiore calo dagli anni 90, il fatturato del settore autoveicoli meno 7,6%. E poi i dati sugli ordinativi industriali dicembre, meno 15%, il fatturato meno 10%, l'auto il fatturato meno 30%, gli ordini dell'auto meno 33%, però qualche cosa si sta muovendo grazie agli incentivi del governo al settore auto, tant'è che iniziano ad arrivare segnalazioni di maggiori acquisti nei concessionari, e la ripresa degli ordini ha permesso alla Fiat di riavviare la produzione della Grande Punto, della Multipla, della Lancia Y e dell'Alfa Mito, e questa è una buona notizia perché è stata sospesa, annullata la cassa integrazione per 8.200 operai che lavorano negli stabilimenti di Mirafiori, Termini, Merese e Melfi. Resta invece purtroppo la cassa integrazione a Pomigliano d'Arco, dove i modelli prodotti, ne abbiamo già parlato anche ieri, non potranno beneficiare degli ecoincentivi. Nel frattempo Saab, che è finita in amministrazione controllata, e ha anche avviato le procedure per ristrutturarsi e scorporarsi da General Motors. Io ricordo che era contratta General Motors, ha venduto 93.000 veicoli, impiega in Svezia 4.000 dipendenti, i posti erano tutti a rischio dopo il piano presentato da General Motors. Ci chiedete dell'Enel? Sì, dovrebbe arrivare a mercato chiuso la notizia dell'ok definitivo sull'operazione Endesa. Infatti alle 17 è iniziato il consiglio di amministrazione di Endesa, e praticamente, se ricordate la vicenda tra Enel e Acciona, verrà firmato la cessione della quota del 25% al gruppo italiano per 8 miliardi di euro. Allora, di borse parleremo e di titoli bancari non c'è verso. Adesso perde il 12% il Banco Popolare, l'11,20 Intesa San Paolo ha perso 2 punti da quando è iniziato il programma, però Unicredito meno 8%. Ne parleremo a mercato chiuso, come se cambiasse qualcosa, però è la nostra regola. Prima vorremmo iniziare con un tema che, proprio alla luce di questa crisi finanziaria che poi è diventata economica e occupazionale, ci ha lasciato molto perplessi. Oggi si è scoperto, nei primi dati forniti al Ministro dell'Economia dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, che in quasi 6 casi di ricorso su 10 il contribuente ha la meglio sull'amministrazione finanziaria. Quindi, come spesso altre volte abbiamo detto, dell'evasione contestata, 6 volte su 10 ha ragione il contribuente. E fin qui si potrebbe anche dire, evidentemente, è stata contestata male. La cosa pazzesca però è che, mentre nel nord del paese, per esempio a Bergamo, solo 2 volte su 10 ha ragione il contribuente, al sud, per esempio il caso di Lecce, 8 volte su 10 viene dato ragione al contribuente. E allora, o diciamo, sono più bravi a fare ricorso in certe regioni dell'Italia, oppure c'è qualcosa che non funziona nella macchina tributaria del paese. 349-238-6666 per i vostri sms. Sì, vi confermo, a chi lo scrive al 349-238-6666, che non stiamo parlando di come andranno le entrate fiscali. Purtroppo il direttore generale dell'Agenzia delle Entrate, Attilio Befera, ha già messo le mani avanti: il calo del PIL porterà un calo delle entrate, un calo dell'IVA soprattutto, e delle tasse sulle persone giuridiche. Vedremo come andrà l'IRPEF, la parte sulle persone fisiche. Qui stiamo parlando dell'evasione contestata e di quante volte lo Stato riesca a vincere, diciamo, i ricorsi legittimi, spesso anche corretti, dei contribuenti. Quante volte soccombe il fisco? Cioè, ha ragione il contribuente. A Lecce, 78% delle volte ha ragione il contribuente. Catania, 77%. Come Siracusa, Reggio Calabria, 75%. Come Biella, unica città del nord. Napoli, 7 volte su 10. Come Isernia, come a Catanzaro, come a Caltanissetta, come ad Avellino. Queste le prime 10. Quante volte invece riesce a avere ragione il fisco, la commissione tributaria regionale, rispetto al ricorso del contribuente? Beh, le proporzioni si invertono se si va al nord. 9 volte su 10 perde il contribuente in Val d'Aosta, 7 volte su 10 in Molise, 6 volte su 10 in Basilicata, in Lombardia, in Friuli, in Toscana, devo dire anche in Puglia, però questo a livello regionale, e la Campania ha una media assolutamente in linea, 6 volte su 10. Salvatore Padura del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Vorrei capire, insomma, come mai, per carità, possiamo anche immaginare che i ricorsi siano fatti peggio al nord di ricorso del contribuente, quindi poi non riesca a vincere in giudizio, ma visto che il tema è delicatissimo, perché qui stiamo parlando di ricorsi rispetto all'evasione contestata, e già sappiamo che da noi su un sommerso di 250 miliardi, quant'è la parte effettivamente incassata dallo Stato ogni anno? 4, 6? 6%, 7%. Ecco. Come mai? In crescita, devo dire, crescita, rispetto al passato. In crescita. Sì, come sì. Mai una tale differenza regionale tra diciamo, ricorsi del contribuente al nord o al sud? A mio avviso è un dato che si spiega in nessun altro modo se non con la qualità degli accertamenti. Voglio dire che laddove l'amministrazione riesce, quindi l'Agenzia dell'Entrata riesce ad avere ragione, a vincere in giudizio 8 volte su 10, è evidente che ha effettuato il suo lavoro con la cura richiesta e quindi ha effettuato nei confronti del contribuente delle contestazioni assolutamente corrette, legittime, e il contribuente è riuscito ad avere la meglio, diciamo, solo 2 volte su 10. Laddove questo rapporto si inverte, a me viene da pensare che evidentemente ci sono alcune zone del paese, mi sembra di capire prevalentemente, ma non solo, insomma, nelle aree del centro-sud, dove la qualità degli accertamenti è sicuramente deficitaria e quindi il contribuente ha, diciamo, più buon gioco nel difendersi in commissione tributaria, nel far valere le proprie ragioni davanti ai giudici tributari. Io, insomma, onestamente non riesco a vedere motivazioni diverse se non quella dell'efficienza che in alcune zone del paese e in alcuni uffici, perché poi abbiamo visto che anche al sud invece ci sono realtà che comunque funzionano bene, ecco. Sì, come media regionale, cioè, tu dici, insomma, l'ufficio dell'agenzia, della commissione tributaria provinciale funziona peggio, quindi contesta un'evasione fatta, la contestazione è fatta male e il ricorso viene vinto 8 volte su 10 a Lecce, a Catania, a Siracusa dal contribuente. Ora io non posso immaginare, con tutto rispetto, che la contabilità venga tenuta meglio in maniera così, diciamo, palese, macchiana, al sud rispetto al nord, che quindi al nord però nessuno... Sai, quando gli uffici o la stessa Guardia di Finanza si reca presso un contribuente o fa, insomma, una contestazione a un contribuente, insomma, molto spesso lo fa anche sostenendo delle tesi che sono tesi proprie dell'amministrazione, no? E quindi a volte queste tesi si dimostrano poi resistere anche e sopravvivere al giudizio alla valutazione dei giudici, e quindi vuol dire che l'ufficio ha lavorato bene, quindi è andato a cercare l'evasione dove effettivamente stava, a contestare comportamenti che erano effettivamente illegittimi, effettivamente irregolari, e altre volte questa cosa non succede. C'è un elemento, se posso aggiungere, che emerge da questi dati che abbiamo visto oggi, cioè che è la riduzione del numero complessivo di cause che vengono discusse davanti alle commissioni tributarie, che è un elemento a mio avviso molto interessante. importante perché diciamo, è la conferma del fatto che in qualche modo stanno funzionando tutta una serie di strumenti alternativi al contenzioso che l'Agenzia delle Entrate, insomma, diciamo che il legislatore in generale ha individuato, tipo non so, il ravvedimento operoso, piuttosto che il concordato, piuttosto che la definizione dei verbali, che evitano quindi al contribuente di andare in contenzioso e gli consentono invece di definire, di trovare, insomma, diciamo, un accordo, ecco, con l'amministrazione, con l'Agenzia delle Entrate prima della lite. È evidente che se crescono molto queste situazioni, è secondo me abbastanza certo che in quei casi invece gli uffici lavorano abbastanza bene, perché è evidente che se il contribuente ha un interesse a definire, no, la sua posizione prima di arrivare davanti al giudice, allora vuol dire che il fisco in qualche modo ci ha preso, insomma. Vabbè, ha individuato. Sì, io devo però anche dare conto di decine di mail che stanno dicendo, capisco, che stanno dicendo la stessa cosa. Vabbè, è inutile già ci attorno. Corruzione, concussione, ci può essere un tasso di corruzione più alto al sud? Io voglio dire, a pensare male, no? Diceva Andreotti, si fa peccato ma delle volte ci si azzecca, però non possiamo parlare sul fare dei ragionamenti, diciamo, sulle ipotesi, sulle sensazioni, perché non abbiamo inchieste alla mano, casi di corruzione delle commissioni tributarie provinciali, no, da dire attenzione, questo è il risultato di una corruzione più alta al sud. No, assolutamente, questo insomma non lo possiamo dire, penso in qualche modo sia legittimo avere il dubbio, insomma, però diciamo noi nella nostra funzione non lo possiamo dire perché non abbiamo gli elementi. Io sono certo che questi dati spingeranno l'amministrazione finanziaria stessa a interrogarsi sui motivi per cui a Lecce l'esito dei giudizi è di un certo tipo e a Bergamo è di un altro tipo, e quindi spingerà l'amministrazione stessa a intervenire per, insomma, evitare che a livello territoriale esistano queste differenze che sono assolutamente ingiustificate. In una battuta, prima di salutarci, Salvatore Padule, passare al tema leggero come oggi del crollo di tutto, mamma mia, Intesa sta perdendo il 15% adesso in chiusura, il Banco Popolare l'11,20, ha perso 6,5 punti solo nell'ultima mezz'ora, roba da pazzi. Comunque i dati Befera non ha fornito cifre, ma insomma l'Agenzia delle Entrate, quanto brusco potrebbe essere il calo dovuto, lo dico prima di innescare polemiche, vedremo come andrà la lotta all'evasione sulle persone fisiche. Intanto se l'economia frena è ovvio che l'IVA cala e anche le imprese pagano meno tasse. Ma io insomma mi sembra di ricordare che nelle stime del governo la flessione complessiva delle entrate fiscali sarà intorno al 2,2% nel 2009. La cosa curiosa da sottolineare è che a fronte di questa riduzione delle imposte complessive che noi andremo a pagare nel 2009, non ci sarà una riduzione della pressione fiscale, perché in realtà la caduta del PIL sarà ancora più rilevante e quindi, diciamo, in percentuale sulla nostra ricchezza nel 2009 continueremo a pagare oltre il 43,3% di tasse complessive. Comunque diciamo che come flessione del gettito dovremmo essere intorno al 2,2% nel 2009. Sì, chiaro che con questi chiari di luna parlare di riduzione fiscale è un tema tabù, anche se in America... È un tema tabù, però è un tema, insomma, sul quale anche altri paesi stanno discutendo. Sulle imprese e su alcuni tipi di lavoratori. Qua non vedo molti margini, certo, devo dire a tutti, perché insomma, i conti pubblici oggettivamente vengono prima, e vedremo se e poi il governo sarà obbligato con i Tremonti bond a dare garanzie fino a 10 miliardi di euro per le banche. Allora, ringrazio Salvatore Padula del Sole 24 Ore. Grazie. 17:39, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, il tema della giornata economico-finanziaria ancora una volta si chiama borse e ancora una volta si chiama banche e ancora una volta si chiama crollo. Devo dire che cali così pesanti non li ricordo nemmeno in quei giorni tra fine settembre e inizio ottobre in cui scoppiò sotto ogni effetto la parte più virulenta di questa crisi. Perché dico questo? Perché vado a memoria, potrei sbagliarmi, ma in quei giorni, per quanto pesantissimi, i crolli riguardavano, erano nell'ordine dell'8, 7%, 9%. Qui oggi Intesa ha perso il 15,34% in un giorno. Abbiamo iniziato la diretta 40 minuti fa, 35 minuti fa, e perdeva il 9. Ha perso altri 6 punti in mezz'ora. Ultimo prezzo a 1,78 euro. Aveva aperto a praticamente questa mattina a 2,1 euro, se non ricordo male. Banco Popolare, anch'esso meno 12% quasi, 11,80 a 3,22 euro. Perdeva il 7 quando abbiamo iniziato il programma, non che sia un benchmark, ma insomma in 40 minuti nemmeno ha perso altri 4 punti. Alleanza meno 8,9, Unicredit meno 8,7, Generali meno 6,2, UbiBanca meno 5,3, come Eni e Saipem e Tenaris e Autogrill e basta, no, e Pirelli meno 5,1%. E poi si va a vedere chi perde il 4%, quasi accontentandosi, quasi sorridendo. Ormai al male non c'è mai fine. Ma insomma, Buzzi Unice meno 4,7, Steam Microelectronics meno 4,4 come Mediobanca, e Impregilo meno 4 come Atlantia. Verrebbe quasi da festeggiare su Fiat, che ha perso solo, si fa per dire, il 3,6%, o Unipol, che ha perso come Fondiaria Sai il 3,6%. Paradossale dire, ma quasi bene la Popolare di Milano, che ha perso solo il 2,80%, visto che complessivamente il MIB ha archiviato un calo del 5 e l'S&P MIB del 5,9%. Adesso andrò anche a darvi riferimento per quello che riguarda quella famosa seduta di fine settembre, inizio ottobre, quando scoppiò la crisi, ma io a memoria non ricordo nemmeno allora cali del 15% su Intesa San Paolo. Siccome nel frattempo è andata malissimo, e stando malissimo anche Wall Street, per via, dove abbiamo Bank of America che ha avuto cali intorno al 14%, Citigroup è arrivata a perdere più del 20%, Rubini dice per le banche europee i rischi si fanno seri. Saluto e ringrazio per essere con noi il capo redattore delle pagine di finanza del Sole 24 Ore, Alessandro Praterotti, buonasera. Buonasera a voi. Ormai uomo come certi pompieri che, no, non ti preoccupare, l'animale ce l'abbiamo già, che viene chiamato nelle situazioni peggiori, quando le situazioni si sono già verificate. Non, cerchiamo di non, dirlo col sorriso. Esatto, sentiamo che cosa ha dichiarato poco fa Meredith Whitney, che è un analista di Wall Street molto quotato perché aveva previsto molti sviluppi di questa crisi, proprio come critica alla non efficacia del pacchetto salva banche lanciato dal ministro dell'economia americano, il segretario del Tesoro Tim Geithner, pacchetto che vale 2.000 miliardi. Nel breve termine, credo che Citigroup si trovi nella situazione più rischiosa. Gli eventi stanno peggiorando in fretta. Penso che nessuna delle grandi banche riuscirà a pagare ai propri azionisti gli attuali dividendi. Credo che assisteremo a una sempre maggiore pressione sulle banche. Per esempio, vorrei veramente che JP Morgan riuscisse a superare questo momento e a pagare i dividendi. Ma sono convinta che JP Morgan sia nella stessa situazione di tutte le altre banche e tutte sentiranno un'altissima pressione sui profitti. Voglio però dire che non ci sono dubbi sul fatto che queste banche abbiano una forte capitalizzazione. Se però attingeranno dalle loro risorse per pagare i dividendi, sarà una loro scelta. Per fortuna stiamo parlando di dividendi non tanto alti, non sono mai stati aumentati in modo significativo, quindi non c'è stata urgenza di abbassarli, anche se l'abbassamento dei dividendi è certamente un'opzione che verrà considerata. Allora, andiamo con ordine per non creare confusione in un mercato, Alessandro Praterotti, già confuso. Il fronte americano, 2.000 miliardi di Timothy Geithner di salvataggio delle banche, si fa l'ipotesi della nazionalizzazione, i titoli, Bank of America perde 15, Citigroup 19, Wells Fargo mi sembra 14. Perché? Perché? Perché mai bisognerebbe comprare dei titoli che non valgono nulla? Il limite del piano di Geithner, come tutti i piani che cercano di eliminare i cosiddetti titoli tossici, però più tecnicamente dovremmo chiamarli illiquidi, cioè che non hanno un valore apprezzabile sul mercato, sono stati chiamati privati, ma perché mai i privati dovrebbero comprare titoli che non hanno mercato? E questa è la reazione della borsa. Altro elemento importante, ma una volta fatta pulizia, quale sarà il modello di business di queste banche? Quindi non c'è visibilità sul futuro. Quali saranno le aree di reddito? Come dovranno fare per snellire attività che si erano ingigantite negli ultimi 10 anni a dismisura? Quindi dovranno esserci altre cessioni, ma cedere attività in un mercato che non ha liquidità significa vendere sotto costo. Questo è un impasse e questo è quello che oggi il mercato sta facendo pagare alle banche. Bisogna dire una cosa e chiudo rapidamente. È il cosiddetto fenomeno del re-rating, cioè se una banca guida crolla di una certa misura, tutte le banche che gli stanno dietro, il mercato le respinge al ribasso per ridare degli equilibri, dei rapporti fra l'una e l'altra che siano quantomeno logici. E questo è quello che sta succedendo. Per questo Intesa perde il 15, perché Unicredito sta crollando e quindi si stanno riparametrando i prezzi di borsa. Quindi sul fronte americano tu dici non è il timore, come scrivono alcune agenzie, che vengano nazionalizzate, anche perché io azionista di una banca nazionalizzata, per carità, non me la passerò benissimo, ma non perdo nemmeno i risparmi. È il timore che al di là del salvataggio e dell'eventuale nazionalizzazione poi non ci siano dei parametri di riferimento corretti sui titoli americani. Ci sono anche un altro aspetto che il nostro ascoltatore non deve dimenticare. Chi opera sul mercato sono i fondi pensioni, i cosiddetti investitori istituzionali, i grandi fondi di investimento. Di che cosa vivono? Non di certo delle variazioni giornaliere, ma dei dividendi. Quando tu elimini il dividendo o lo azzeri, quel denaro si orienta su altri titoli. Non è un caso se oggi bastava guardare i titoli tecnologici che tenevano, perché i grandi titoli guida del settore tecnologico sono quelli che pagheranno i dividendi e lì si stanno orientando i risparmi. Hai fatto bene a dirlo, perché se il Dow Jones perde l'1,80 il Nasdaq perde lo 0,6, quindi un 1,2%. Il denaro sta andando in quella direzione dove si pagano i dividendi e dove, ragazzi, qui bisogna stare attenti a ricordarlo molto, i fondi pensioni pagano le pensioni di 100 milioni di americani. Certo. Parigi meno 4,25, Francoforte meno 4,80, Londra meno 3, Milano chiuso la peggiore, meno 5,88% sull'S&P MIB. Chiusa, diciamo, la parte americana. Ci spostiamo a quella europea dopo le informazioni per chi è in viaggio, perché da noi si dice da un lato Intesa, Unicredito pagano la loro esposizione verso l'est. Ora, con tutto quello che si può dire, metà del fatturato l'Unicredito lo fa in Italia, in Polonia all'8%, in Germania al 17%, ma insomma dire che valevi 6 euro un anno fa e adesso vali 80 centesimi solo per l'est Europa, quoti meno dei mezzi propri, è pesante. Dopo e non sta in piedi soprattutto. 0,25 il patrimonio. Esatto. Allora, chiarito che in America i dubbi sono al di là del piano Geithner, che ne sarà di queste banche, che valori avranno nazionalizzate, cosa dovranno cedere, insomma, non si sa quale sarà il nuovo valore di questi colossi bancari o ex colossi, quindi il mercato vende. Veniamo a noi, perché l'Italia, l'hanno detto tutti, è meno esposta nei prodotti tossici. Le banche italiane, come dice il ministro Monti, non parlavano così bene l'inglese, quindi tranne i grossi gruppi, Unicredit, Intesa, che qualcosa hanno dichiarato d'avere, non abbiamo visto quello che è successo in Germania e in Gran Bretagna, dove in Gran Bretagna ormai le banche sono le principali, sono nazionalizzate, Barclays e Royal Bank of Scotland. In Germania si è arrivati addirittura a imporre per legge l'esproprio delle azioni se la banca si rifiuta. Perché, andiamo sui singoli casi, Intesa perde il 15,3, il Banco Popolare l'11,8, Unicredito l'8,7. La vulgata vuole l'esposizione verso l'est Europa, come se improvvisamente si scoprisse che hanno delle controllate nell'est Europa. Io faccio semplicemente notare che, a parte che Banco Pecao oggi ha chiuso bene il 2008, ma vabbè, che il Banco Polacco, Unicredito ha metà del suo fatturato in Italia, il 17% in Germania, l'8% in Polonia. Ora, vedere che Intesa valeva un anno fa 5 euro, ne vale 1,80, Unicredito valeva 6 euro, vale 88 centesimi, non è giustificabile con l'est Europa. Alessandro. Ogni banca ha i suoi problemi, prendiamone una per una. Abbiamo detto il Banco Popolare è un grande problema, che è quello che derivava dall'integrazione della vecchia Popolare di Lodi. Il caso Italis, che è un'altra controllata di quell'azionista principale del Banco Popolare, che probabilmente addirittura lì si sta parlando del delisting, perché non si riesce nemmeno a venderla, o quantomeno di un'OPA che farebbe lo stesso Banco Popolare, ma lì sono rumors di mercato. Non si riesce riesce a venire fuori, deve una visibilità sull'attivo di quella banca. Per quanto riguarda Banca Intesa, probabilmente Banca Intesa ha accelerato oggi le perdite e quando Unicredit ha rotto tutte le barriere tecniche che sopportavano quel titolo, quindi a quel punto il mercato, come diciamo prima, ha fatto il cosiddetto fenomeno del re-rating, cioè ci si riparametrizza tutti quanti i valori sulla base della banca leader, della banca guida, e in questo caso Intesa e Unicredit stanno facendo da catalizzatore del pessimismo sul settore bancario. Poi ci sono delle ragioni diciamo così più strutturali e congiunturali. Abbiamo detto gli asset tossici, punto interrogativo. È vero che le nostre banche non parlano inglese, ma evidentemente parlavano tedesco perché sono andate in Germania a comprare, quindi anche lì, e lì è un terreno minato oggi per le banche. Questo riguarda soprattutto Unicredit, Est Europa, Germania. Per quanto riguarda Intesa è una banca solida, come del resto poi anche Unicredit non è una banca che possiamo dire che rischia in qualche cosa, se non un problema enorme di immagine del proprio management, di tenuta d'insieme, di comunicazione della banca. Sono fattori che stanno pesando su quella, in questo momento pesano su Unicredit, ma ci sono anche per Intesa, ci sono anche problemi che riguardano il corporate, ovvero tutti gli investimenti fatti nelle imprese, e non è un segreto che le imprese oggi italiane siano in difficoltà, e c'è il rischio che con la crisi economica, soprattutto nella parte terminale della crisi, aumentino i default. Quale sarà l'impatto sulle banche che hanno finanziato le imprese? Questo il mercato comincia a chiederselo anche oggi. Allora, c'è Alessandro una domanda di fondo. Visto che l'Est Europa pesa, ma non hai motivo, visto che tu hai anche ricordato come ci siano, come nelle stampide dei cavalli, dei titoli guida, dei cavalli guida, quando Unicredit rompe la soglia dell'euro, a quel punto tutti vanno a vendere anche sulle altre banche. Soglie tecniche, certo. Soglie tecniche. Però, domanda fuori dai denti, è possibile che le banche italiane non abbiano nessun prodotto tossico? Cioè, noi per 4 mesi abbiamo raccontato che noi eravamo meglio degli altri, molte banche in effetti hanno perso poco, ma è possibile? Problema è questo, che quello che era tossico ieri non è detto che abbia qualcosa di tossico in più oggi, nel senso che il problema della liquidità sul mercato e soprattutto su certi titoli derivati in possesso delle banche sta peggiorando. Quindi qual è oggi la definizione di asset tossico? Solo quello derivato dal subprime? Il mercato comincia a pensare che ci sono anche altre forme di titoli che stanno cominciando a diventare liquidi e che stanno nella pancia delle banche. Lì non c'è visibilità. Io sono rimasto molto colpito, come gran parte poi anche dei nostri lettori o dell'opinione pubblica, quando appunto si sentono dire soltanto messaggi rassicuranti dalle nostre banche sul fatto che noi siamo meglio degli altri. Ma il meglio degli altri vuol dire che siamo un'isola felice per cui faremo soltanto fra di noi i nostri affari? Le banche vivono integrate in un contesto internazionale. Se il sistema non funziona, nel breve medio periodo anche le nostre banche accuseranno il contraccolpo. Quindi stare meglio non significa stare bene domani. E questo ci conforta in procinto del weekend, ma diciamo. Ma domani ci sarà il Forex, lì sarà una grande appuntamento domani a Milano per sentire dalla voce stessa dei banchieri qual è il punto. E io credo che oggi mettere la propria faccia su una dichiarazione sia molto più impegnativo di quanto non lo fosse, sì, qualche giorno fa. Tra l'altro, domani seguiremo anche noi il Forex a Milano, l'appuntamento per gli operatori del mercato della finanza, il governatore Draghi, tutto i vertici bancari. A Roma, all'Aspen, interverrà anche il commissario europeo, il membro europeo della BCE Bini Smaghi, quindi avremo anche un doppio fronte Roma-Milano domani su questo. Vorrei sulle banche centrali concludere e quindi anche con Alessandro Platerotti. Il governatore Draghi all'ultimo G7, eravamo una settimana fa nemmeno, ha detto le banche facciano chiarezza e pulizia. Sapeva già qualcosa, aveva capito che se continua, se continua così, o parlano o vengono massacrate dal mercato. Ma è quello che stavamo dicendo noi, Draghi si è fatto interprete di questa, cioè sappiamo, è ora di guardare all'interno dell'attivo, che le banche guardino il loro attivo non cercando più soltanto i subprime, ma anche altri derivati che hanno perso valore, hanno perso un valore enorme, e quindi se devono essere fatte svalutazioni e poi ricapitalizzazioni, che vengano fatte. Ora ci sono anche i Tremonti Bond, quindi anche l'Italia si è dotata nel suo piccolo e con gli sforzi fatti con le nostre finanze pubbliche di uno strumento per il rafforzamento patrimoniale delle banche. L'augurio del governatore qual è? Fate pulizia e guardiamo avanti. Allora, visto però i valori delle banche, ti chiedo, i Tremonti Bond oggi approvati da Bruxelles hanno un valore di 10 miliardi complessivi. Guardate che il problema non è, lo dico chi scrive, il 7,5% di tasso di interesse che rendono, perché gliel'ha chiesto l'Europa questo all'Italia, non potevano, certo, rendere troppo poco, se no diventava aiuto di Stato. Ma insomma, 10 miliardi ci sono che le banche possono ottenere perché il Tesoro gli sottoscrive le obbligazioni. Basteranno? Ma basteranno, il dilemma è sempre lo stesso. Se noi andiamo a guardare le operazioni di ricapitalizzazione fatte con gli aiuti pubblici nel resto del mondo, il risultato è ancora una volta brutto, perché i prezzi delle banche che hanno avuto finanziamenti pubblici all'estero, i prezzi in borsa parlo, sono più bassi di prima di avere il finanziamento, quindi evidentemente non basta. Il livello di lending, ovvero di finanziamento al sistema economico, non è aumentato, è rimasto stabile, se non addirittura sceso dopo l'aumento. Questo che cosa vuol dire? Che riparare lo stato patrimoniale non è condizione sufficiente per rimettere in moto il sistema finanziario, e lì il meccanismo è più complesso e servirà uno sforzo collettivo, compreso quello di governi, sul piano economico, perché senza un'economia aiutata e stimolata anche le banche non sanno con chi fare affari. La nazionalizzazione potrebbe far fuggire gli azionisti, perché questo è un tema abbastanza dibattuto, ma se lo Stato, in Italia non se ne parla ancora, Bazzoli oggi ha dichiarato non c'è nessuna nazionalizzazione in corso, lo ha fatto quando il titolo però perdeva il 7%, oggi ha perso il 15%. La nazionalizzazione è un male estremo, è assolutamente il male estremo in questo senso, perché poi l'investitore cadono dei requisiti base per l'investimento di mercato, ovvero la governance, la logica economica degli investimenti. Quali saranno i condizionamenti di un azionista pubblico che siede in un board? Non lo sappiamo, non ce lo ricordiamo quantomeno più. Le ultime grandi nazionalizzazioni, insomma, le privatizzazioni sono state fatte nel dopoguerra. Eh sì, infatti oggi Franco Locatelli ricordava quando proprio Ciampi e insomma tutta una scuola di pensiero giustissima decise negli anni 90 di cedere anche le famose BIN, le banche di interesse nazionale. Sono stati gli ultimi, ma i francesi privatizzarono il loro sistema subito dopo la seconda guerra mondiale. Sì. Vabbè, in bocca al lupo a tutti quelli in ascolto, grazie Alessandro Paterotti. Grazie a voi. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni in questa giornata dominata dal crollo dei titoli bancari in Italia soprattutto, non che nel resto d'Europa si vada meglio, ma Milano è la peggiore delle borse europee, ha perso quasi il 6% l'S&P MIB, il 5,88%, meno 15% Intesa, meno 11,80% il Banco Popolare, meno 9% Alleanza, meno 8,7% Unicredito, meno 6,2% Generali, meno 5,5% UbiBanca. E ne abbiamo parlato diffusamente con Alessandro Paterotti, si sposta l'asticella e quindi risulta sempre più difficile, per sintetizzare, dire che continuare a dire che le banche italiane non hanno problemi perché non parlavano inglese, non hanno prodotti tossici. Lo stesso Alessandro Paterotti ricordava che si sposta anche la definizione di prodotto tossico, perché più peggiora la liquidità sul sistema più diventa difficile anche collocare un prodotto, e arriva il bollettino di guerra. La borsa europea oggi è, con il panico che l'ha attraversata, è tornata ai livelli della primavera del 2003, 154 miliardi di euro di capitalizzazione svaniti, e la sola Intesa San Paolo ha bruciato 4 miliardi di euro di capitalizzazione. Che cosa vuol dire? Ogni volta lo chiedete, che moltiplicando il numero di azioni per il valore del titolo, questa mattina valeva 4 miliardi di euro in più di questo pomeriggio. È impressionante. Si sgonfiano appunto anche Alleanza e Generali. Adesso, al di là dei titoli bancari, sì è vero, ormai siamo a meno 70% rispetto, ma anche di più rispetto a un anno fa su questi titoli. Commentiamo il resto della borsa, poi parleremo per i piani di aiuto a livello europeo con il vice direttore della Banca Europea degli Investimenti. 349-238-6666. Allora, la borsa con un leggero ritardo. Guido Maurino, Radio Corri sulle 24 ore, buonasera. Buonasera a voi. Lasciamo stare le banche, ne abbiamo parlato nell'ultima mezz'ora, male oggi anche Generali e Alleanza, potrebbero accelerare la fusione? Ieri c'è stato da una parte il comitato esecutivo di Generali, poi c'è stato successivamente il CDA di Alleanza. In realtà sembra che abbiano deciso di discutere di questa fusione nel CDA del 18 marzo, quindi in qualche modo tutto è stato un pochettino spostato in avanti almeno di un altro mesetto. Andiamo avanti con i titoli. Fiat, oggi il dato sull'andamento del settore è stato pesante, qualche segnale però, per esempio una buona notizia, direi l'unica di oggi, che è stata tolta la cassa integrazione, l'ipotesi di cassa integrazione per oltre 8.000 dipendenti della Fiat, 8.200, perché iniziano a produrre gli effetti, gli incentivi per l'auto nei concessionari, quindi non andranno per fortuna in cassa integrazione 8.200 operai di Mirafiori, Termini Merese e Melfi, vi andranno quelli di Pomigliano perché producono un modello non ecocompatibile, visti gli incentivi. Fiat però perde tanto anche oggi, il 3,6. Sì, Fiat ha perso anche oggi il 3,6, rimane di nuovo sui minimi dall'inizio dell'anno. Diciamo che la buona notizia per Fiat può arrivare anche dal fatto che sembra sia stato definito questo finanziamento revolving da 1 miliardo. La notizia è appena arrivata in questi minuti qui in redazione, per cui questo può essere insomma una notizia positiva per Fiat. Enel che ha limitato i danni, dovrebbe arrivare appunto a breve la notizia dell'accordo finale con Acciona per il 25% di Endesa. Andiamo a cercare un po' i titoli che meno hanno perso, però sempre sul fronte energetico Eni ha perso parecchio, il 5,3%, Enel il 3%, la Popolare Milano il 2,80%. Tra chi ha guadagnato c'è Seat, Pagine Gialle più 0,7%, Terna più 0,7%, Snam più 0,25%, Luxottica più 0,25%. Seat. Sì, allora Seat oggi ha presentato il suo piano industriale al 2011. Diciamo sostanzialmente ha ripreso per grandi linee il piano che aveva già presentato il 23 dicembre, però ha fornito alcune indicazioni in più, soprattutto per quello che riguarda l'indebitamento, che è atteso in diminuzione dai 3,08 miliardi a fine dicembre di quest'anno a 2,4 miliardi nel 2011. È anche previsto un leggero aumento dell'EBITDA che a dicembre era stato indicato in linea con quello del 2008, mentre adesso passerebbe a 580 milioni rispetto ai 560 con cui il gruppo ha chiuso a fine 2008. In ogni caso, nel presentare i dati, Maiocchi ha detto che il gruppo può sostenere l'attuale indebitamento, che insomma è un indebitamento alto ma non preoccupante. Quindi nessun effetto, visto che lo chiedono anche gli ascoltatori, del via libera dell'Europeo sui Tremonti Bond, lo ricordo, 10 miliardi di euro al 7,5%. Qualche banca, per concludere, però oggettivamente si è comportata meglio, il Monte dei Paschi meno 2,6%, citavamo la Popolare di Milano meno 2,8%, per Unipol meno 3,7%. Ecco, per voler vedere quel poco di positivo che c'è, queste banche tengono di più. Con qualche ragione, Guido? Bisogna considerare che ad esempio banche come Monte dei Paschi avevano comunque già perso molto in passato, per cui anche Monte dei Paschi ho già perso appunto il 2,6%, ha chiuso sotto un euro, che comunque è una chiusura praticamente sui minimi dell'istituto, quindi insomma non è che si può dire veramente che abbiano ottenuto. Hai ragione anche tu, che per non continuare con notizie pessimistiche sulle banche. Allora, avete ragione, immagino che alcuni di voi che scrivono, ma forse è il caso dei vertici, il mercato si aspetta un cambio dei vertici delle banche. Ma sì, ci sta anche questo, sicuramente la governance dovrà essere ridefinita, tutto quello che volete. Però faccio notare che in America tutti i vertici sono stati cambiati. Oggi Citigroup ha perso il 14, Wells Fargo il 12, Bank of America un altro 12. Cioè il mercato che non crede, non capisce, come spiegava Alessandro Praterotti, quale possa essere una nuova valutazione di questi asset bancari. Comunque grazie Guido Maurino di Radio Corriere sulle 24 ore. Allora, come anticipato, ultima parte di Focus Economia, dopo una giornata, come ricordavamo, in cui pesanti sono i cali ancora su tutto il settore bancario in Europa e anche in America, cerchiamo di capire quelle che possono essere le iniziative di carattere europeo, visto che molto si è discusso di rischi di protezionismo, di necessità di un'azione congiunta e europea, non dei singoli stati, delle singole nazioni. Ne parliamo con il vicepresidente della BEI, che è la Banca Europea degli Investimenti, dottor Dario Scannapieco. Buonasera. Buonasera. Allora, lo ricordo a chi in ascolto, la Banca Europea per gli Investimenti, creata addirittura nel 57, ha il compito di finanziare progetti di interesse europeo a lungo termine, ha sede in Lussemburgo e tra l'altro non avendo scopo di lucro offre anche investimenti e supporto a condizioni di credito più che favorevoli, non può però per statuto diciamo coprire più del 50% di ogni singolo progetto. Prima domanda molto semplice: voi che tipo di investimenti farete nel prossimo anno, quindi 2009-2010, a livello europeo, visto che da più parti si è invocata la BEI come strumento per realizzare quei piani europei complessivi di sostegno all'economia? Guardi, la BEI opera essenzialmente su sei obiettivi primari: la coesione economica e sociale nell'Unione Europea, gli investimenti nel campo della ricerca, sviluppo e innovazione, il finanziamento delle reti transeuropee di trasporto, comunicazione ed energia, le cosiddette TENS, il sostegno alle piccole e medie imprese, investimenti che mirino ad assicurare la sostenibilità ambientale e poi investimenti che mirino ad assicurare la diversificazione e la sicurezza degli approvvigionamenti energetici. Queste sono, diciamo, è la baseline su cui opera la BEI. Per il biennio 2009-2010 sono previsti incrementi di attività di circa il 30% poggiano essenzialmente su tre pilastri. Il primo è un incremento del sostegno alle piccole e medie imprese, che costituiscono la massima parte del sistema economico europeo. Il 99% delle imprese in Italia sono piccole e medie imprese. Il secondo pilastro è il sostegno ad iniziative e a progetti che mirino a ridurre gli effetti del climate change. All'interno di questo secondo pilastro c'è una linea dedicata, per esempio, a sostenere i progetti di ricerca e sviluppo di motori più ecocompatibili per l'industria automobilistica. Il terzo pilastro è sostenere i paesi e le regioni del cosiddetto obiettivo convergenza, quindi nuovi stati membri dell'Unione Europea, ma anche regioni più svantaggiate dell'Europa dei 15, proprio per evitare che la crisi acuisca ancora di più le differenze tra i paesi europei. Di quanti soldi complessivamente stiamo parlando e quanta parte verrà destinata a ognuno di questi tre pilastri? Guardi, l'ammontare addizionale, che ha un valore programmatico, questo tendo a precisarlo, non è una cifra fissa, è nell'ordine dei 15 miliardi di euro, distribuiti in circa 3 miliardi e mezzo per le piccole e medie imprese, di cui 1 miliardo per le mid caps, quindi per le imprese un pochino più grandi, orientativamente circa 6 miliardi di euro per la lotta al climate change, 2,5 miliardi di euro per le regioni ad obiettivo convergenza. La parte residua è una riserva di flessibilità che può essere utilizzata su ciascuno di questi tre obiettivi in relazione alla domanda. Già oggi le posso comunicare, per esempio, che la pipeline che abbiamo di progetti da finanziare per investimenti in ricerca e sviluppo nel settore automotive è di circa 7 miliardi, quindi probabilmente sull'energia, cambiamento climatico, si farà di più, così come anche nel settore delle piccole e medie imprese e mid cap. Ecco, operativamente come deciderete a chi dare questi soldi? Quindi vorrei anche capire la richiesta da chi deve arrivare e voi poi come valuterete a chi assegnare questi finanziamenti? Ma guardi, quello che fa premio non è sicuramente una suddivisione geografica, anche se l'Italia è storicamente il primo prenditore di fondi della BEI, come ricordava lei dall'inizio, dalla sua creazione ad oggi l'Italia ha beneficiato di investimenti e finanziamenti della BEI per oltre 120 miliardi di euro. Quello che fa premio è la qualità dei progetti, quindi progetti di qualità rilevanti, importanti, a seconda appunto che rientrino nelle sei categorie iniziali. Le ricordo per esempio che di recente la BEI ha approvato dei progetti per la salvaguardia di Venezia, quindi un finanziamento del sistema del Mose e molti finanziamenti alle piccole e medie imprese. Quindi non è una logica geografica, ma soprattutto di capacità di proposizione di progetti di qualità. Per fare un esempio ancora più concreto, se l'Italia volesse, visto che appunto le piccole e medie imprese, soprattutto in Italia, sono la stragrande maggioranza del tessuto produttivo, se si volesse utilizzare parte di questi 3 miliardi e mezzo, per il sostegno alle piccole e medie imprese, che cosa dovrebbe fare? Cioè, chi dovrebbe presentare il progetto? Dunque, intanto occorre spiegare che la BEI, essendo un'istituzione localizzata a Lussemburgo, non dispone di una rete, che quindi il finanziamento alle piccole e medie imprese avviene in maniera intermediata, ossia la BEI fornisce il proprio funding, come ricordava lei, a condizioni molto competitive, perché la BEI è un'istituzione senza obiettivo di profitto ed è un'istituzione con il rating AAA, fornisce il proprio finanziamento al sistema bancario italiano. Attualmente la BEI lavora con 25 gruppi bancari in Italia, dai maggiori, tipo Unicredit, Intesa, anche ai più piccolini, insomma. A questo punto, a valere sulla funding della BEI, le banche possono utilizzano in tempi certi, ristretti e con modalità ben precise, ossia trasferendo il valore aggiunto dato dal finanziamento della BEI, possono finanziare le piccole e medie imprese che si rivolgono ad esse. Quindi diciamo, voi girate, se mi permette il termine, i soldi alla banca, e quindi la banca poi li darà concretamente alle piccole imprese. Proprio perché la BEI non ha una rete territoriale, mentre sono le banche che hanno un rapporto molto forte e capillare sul territorio. Vista anche la sua posizione e la posizione della Banca Europea degli Investimenti, la sede in Lussemburgo, guardare all'Europa in questo momento e fare un raffronto con l'Italia, tra Italia e il resto dei grandi paesi europei, significa dare quale valutazione, dottor Scannapieco, della posizione, della situazione italiana in questo momento, fermo restando che nessuno sta navigando in acque buone quanto ciclo economico? Ma guardi, non è dissimile, io trovo, per quello che mi è concesso e che riesco a vedere io dall'osservatorio europeo. Quello che mi preme dire è che trovo che le politiche e le risposte che sono state date sono molto interessanti e mi sembrano le uniche perseguibili. Le risposte concordate a livello europeo mirano e poggiano su due pilastri. Uno è uno stimolo alla domanda, che è fondamentalmente delegata alle singole nazioni. Un esempio per tutti possono essere gli incentivi dati per l'acquisto di automobili e di altri beni durevoli. L'altra invece è un'iniziativa più di portata europea, che è l'investimento in iniziative intelligenti che mirino ad assicurare la competitività dell'Europa nel lungo termine. La BEI, il ruolo della BEI interviene proprio in questo secondo pilastro, quindi fare gli investimenti, investire in ricerca e sviluppo per assicurare la competitività del sistema Europa nel futuro. Queste linee si stanno perseguendo, direi, a livello europeo e a livello praticamente di tutti gli stati. Vista la giornata e il finale di questa settimana di borsa, oggettivamente molto molto pesante, ne abbiamo parlato in tutta la prima ora del programma, insomma, grandi gruppi bancari italiani hanno avuto cali vicini al 10% nel caso di Intesa, anche molto male altri titoli, Unicredit, Banco Popolare, Alleanza, Fondiaria, Generali, UbiBanca, non va meglio nel resto d'Europa, di nuovo sotto pressione l'UBS, e di America abbiamo parlato nella prima ora del programma. Le chiedo, voi siete una banca, ma insomma, che idea si è fatto lei della situazione e a che punto siamo del guado? Perché arrivano alcuni segnali timidissimi di una leggerissima ripresa, per esempio nel settore auto, da quando ci sono gli incentivi in Italia, ma non solo. Ma le banche continuano a essere pesantemente vendute in borsa. C'è tanta roba ancora che non è uscita, secondo lei? Ma io credo che l'ultima sua considerazione è quella giusta. Se uno valuta e analizza quello che sta succedendo sui mercati attuali, è l'incertezza. I mercati preferiscono avere una cattiva notizia certa rispetto ad uno scenario incerto, e l'incertezza sulle dimensioni delle potenziali perdite, secondo me, è quello che sta creando un elemento di instabilità. È difficile fare previsioni, guardi, comunque ha fatto previsioni negli ultimi mesi, è stato poi smentito dai fatti, e quindi io non azzardo. Devo dire, e ritorno sul punto di prima, ci sono secondo me elementi incoraggianti, il primo tra tutti il fatto che le politiche che sono state messe in piedi vanno nella direzione giusta. Guardi, lavorare sul credito, sulle infrastrutture, sulle grandi imprese, sulle piccole e medie imprese sono elementi che devono andare insieme, e quello che è stato messo in piedi a livello nazionale, a livello europeo, va nella giusta direzione. Non si può lavorare su uno di questi quattro elementi, ripeto, credito, quindi sistema bancario, infrastrutture, grandi imprese e piccole imprese, senza tenere conto degli altri. Beh, staremo a vedere, vedo che anche dal suo punto di vista l'incertezza è alta, e apprezzo la correttezza nel dire meglio non sbilanciarsi se non si hanno gli elementi. Grazie al vicepresidente della Banca Europea degli Investimenti, Dario Scannapieco. La ringrazio, buonasera. E da Sebastiano Barisoni è veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. Voi in ascolto, come sempre, venerdì l'auguro di un buon fine settimana e un ringraziamento a Mauro Del Corno e Barbara Bianchi per l'assistenza in redazione. Focus Economia torna lunedì dalle 17 in poi.